Tra la la ru tra la la, questo è il paese della felicità. Girano voci nelle piazze e sui giornali circa presunti disagi sociali, ma state sereni, state serene, perché in Italia va tutto bene. Tra la la ru tra la la, questo è il paese della felicità. Che per salvare l'usuraio istituzionale si penalizzeranno i risparmiatori, i lavoratori e persino i bambini. E a chi dice che c'è crisi, che c'è rabbia, che c'è fame, rispondo usando parole non mie, si tratta soltanto di grandi bugie. Tra la leru tra la la, questo è il paese della felicità. E anche se truffi, anche se inganni, anche se rubi di qua e di là, riuscirei sempre, lallero, lalla, ad ottenere la tua immunità. E anche se fai fallire una banca o fai fallire un'intera città, troverai il modo di farla franca. Tra lallero, tra lalla, tra lallero, tra lalla, questo è il paese della